Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Meis, benvenuti a Smart City. Allora, vi do subito un'avvertenza. Per chi di voi ne avesse la possibilità, vi esorto ad aprire la pagina di Smart City sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Ci troverete, anche se non lo facciamo abitualmente, delle fotografie che tuttavia vale la pena di avere sotto gli occhi questa sera, perché parleremo di paesaggio. Con una chiave di lettura, io spero stimolante, grazie all'aiuto di Andrea Schippar, che è architetto paesaggista ben noto, che lavora in Italia da tanti anni, ma che è anche membro in Germania della Commissione per la tutela del paesaggio. Buonasera Kipar, benvenuto. Buonasera a voi tutti. Partiremo proprio da degli esempi di interventi fatti in Germania per parlare di un concetto che mi ha affascinato molto e che ho sentito per la prima volta uscire appunto dalla bocca di Andreas, quello di paesaggi dell'industria e paesaggi dell'energia. Io però, Andreas, direi partiamo da un caso concreto, quello di Ferropolis. Poi proviamo ad analizzarlo. Che cos'è Ferropolis? Beh, Ferropolis è proprio l'essenza di questa cultura industriale, una volta dismessa, lasciato non proprio al suo destino, ma trovando una nuova vocazione. Ferropolis sono queste gru che hanno portato migliaia e milioni di tonnellate di lignite dalle cave di lignite. Siamo nel bacino della Ruhr. No, è nella Ferropolis, è proprio sul confine della Polonia. Ah, ok. 5.000 chilometri quadrati di aree industriali dismesse, di cave di lignite, che fanno nascere un grande bacino d'acqua, dei nuovi laghi, ma su una delle tante isole rimangono questi giganti dell'industria. E giganti dell'industria, dei ponti, dei carri ponti, in tutto 2000 tonnellate, cioè giusto per dare un'idea, quasi come una torre d'Eiffel sdraiata, come lunghezza, riutilizzato in pieno come un'arena. Allora, dunque, parliamo di aree enormi, abbiamo parlato migliaia di chilometri quadrati che sono stati praticamente sbancati per tirar fuori il carbone, e quindi già questo ha distrutto la superficie proprio di un'area molto estesa, e in più ci sono, come dire, i cadaveri di un'industria che è più che centenaria, tra cui questi enormi tralicci, sembra veramente la Torre Eiffel sdraiata su un lato, e è diventata, tu dici, un'arena. Che cosa è successo esattamente? È successo che nel processo della conversione da un'area industriale a un paesaggio nuovo non si è voluto banalizzare, ma si è tentato, attraverso un'esposizione internazionale di architettura, la IBA fürs Bücklerland, in 10 anni di invertire la tendenza, di riutilizzare queste antiche testimonianze della industrializzazione con gli scopi nuovi. Ferropolis è un esempio riuscito, un'arena di manifestazioni musicali in una cornice. Una straordinaria, veramente. Ci sono poi queste enormi macchine scavatrici, no? Enorme macchine 5, se ricordo, dei giganti. Costituiscono la chiamano proprio una città di ferro. Potete immaginare che razza di scenografia per eventi come dei concerti possa essere. Ecco, e qui veniamo un po' anche all'analisi di questa trasformazione, perché mi sembra di poter dire che siamo di fronte a uno di quei casi. Questo vale per le miniere di carbone, ma anche per altre situazioni, in cui tornare anche indietro e ripristinare lo stato precedente, francamente, oltre ad apparire anche un po' velleitario, bisognerebbe capire quale stato precedente, perché per esempio in Italia sotto i 1300 metri di quota non c'è niente che sia come era alle origini, è tutto frutto di un equilibrio tra forze della natura e comunque azione dell'uomo. Ma a parte questo, diciamo, aspetto logico, ripristinare una situazione come quella che tu hai descritto ha anche dei costi assolutamente esorbitanti, no? E allora lì ci si inventa una nuova funzione. È un po' questo, mi sembra, il concetto. Sì, si potrebbe anche sintetizzarlo, si fa di necessità virtù, anche se questi progetti risalgono negli anni 80-90, dove magari di risorse si disponevano ancora, ma alcune persone illuminate che non volevano cancellare tout court questa testimonianza si sono impostati, e con creatività, innovazione e un po' anche di grande capacità gestionale sono riusciti a salvaguardare questi giganti della industrializzazione, ma non solo come monumenti da guardare, ma da riverniciare tutti gli anni, no? Come la Torre Eiffel, che va riverniciata da cima a fondo tutti gli anni, perché non era fatta per stare lì secoli. Allora, questo è probabilmente anche una nuova forma di economia sul territorio, che crea dei nuovi paesaggi, e di cui noi non dobbiamo più aver paura: i paesaggi della industrializzazione, il paesaggio di un tempo che si sta anche in Europa per chiudere. Ecco, naturalmente l'obiezione più forte e immediata è proprio quella lì. Uno dice: ma come? Ma e la natura che fine fa? Questa è un'obiezione che nasce spontanea. Ma nasce spontanea ed è anche per certi versi giustificata se uno non pensa alla immensa potenzialità che questi luoghi offrono ai cosiddetti neofiti. Cioè, si sa che nelle aree industriali dismesse si instaurano specie floristiche e faunistiche che spesso nelle aree circostanti dei paesaggi cosiddetti coltivati non si trovano. Perciò anche dal punto di vista ecosistemico sia sicuramente un arricchimento rispetto alla, spesso alla monotonia dei grandi paesaggi produttivi. Allora, grazie Andrea Schipar. Noi ci fermiamo solo per il momento, perché vogliamo raccontare qualche altro caso. Tra l'altro ce n'è uno al quale stai lavorando proprio in Italia. Allora ci risentiamo domani. Volentieri. Buona serata. A domani.